later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non più. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli l'aria è stagnante come in un ufficio dell'era bresnieviana, Cappa e Drago vedono un uovo distrutto. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Allora, prendilo tu, ma no, perché ma se, mi fido fai? Più di te. Ma lascialo stare, ma chi stare? Ha voglia di portarselo in è giro? È un'occasione. Un uovo da 2,5 kg, Drago. Sì, certo, 2,5 kg. Un uovo di struzzo vale 24 uova di gallina, lo sapevi? No. 24 uova. Con questo puoi fare... l'omelette definitiva. Hai capito? Quindi in una botta sola ti fai sì, 24 sì, uova. Sì. E se si rompe mentre andiamo... Vabbè, stiamo facciamo il disastro definitivo. The Ultimate Disaster! Eh sì, saremmo come dire ricoperti sì, insomma. Puzza di freschino da qui all'eternità. Due chili di bianco d'uovo tutto insieme, Drago. Sì, un parossistico buccache di bianco d'uovo, che bello. Ma no, che schifo, Drago. Poi si dice buccache. Sì, che sarebbe a dire come su Halloween. Buono sbattimento, ciao. Ciao, sentite un po'. Chi è che aveva dato il permesso di raccogliere quell'uovo distrutto? Perché è di qualcuno, ci va il permesso. È certo di qualcuno, è mio. Ma come tu? Non ho capito, è tuo nel senso... Nel senso che è mio. Abbassa il tono, Pollo, perché dov'è finita la tua conversione al cristianesimo? Eri tutto gentile. Mi è passata. Ti è passata, come se fosse una bronchite. Una pleurite. Come una pleurite? Ma sì, mi è passato come passa la pleurite, no? Mi sono svegliato una mattina e non avevo più la pleurite. Ah, perché passa così la pleurite? Uno sì. Si sveglia, no, non deve andare in ospedale. Volevo dire, non avevo più la conversione. Allora, sembra che stai parlando dello sterzo della macchina. Ma sì, insomma, non credevo più in Dio. Cercate di essere un po' più veloci a capire, eh? E se no mi fate venire nervi, vi do delle beccate una per ogni occhio e me li mangio come lombrichi, gli occhi. Sì, questa l'hai già detta, Pollo. Sì, è vero, scusate, non succederà più. Okay. Il fatto è che voi mi state rubando l'uovo distrutto e questo mi fa girare le palle. Vabbè, quali palle? Vabbè, comunque. Infatti, se è davvero tuo, comunque allora scusaci, però se è davvero tuo devi anche provarcelo. Senti, ho qui un pizzino che lo dimostra, Pollo di poca fede. Un pizzino? Un pizzino. Cosa? Qui c'è scritto chiaro e tondo che l'uovo di struzzo è di mia proprietà. Ah, c'è scritto lì. Ha detto il Pollo dei pizzini, E quando il Pollo dei pizzini decide che succede qualcosa, quella cosa deve succedere, capito? Quella cosa succedere deve, capito? Come non hai capito? Ma che ti ho studiato a fare? Il Pollo dei pizzini chi è, scusa? Un capo mafia? Capo mafia? Ma no, non fatemi ridere. Il Pollo dei pizzini è oltre la mafia. L'ha superata da un pezzo. Cosa vuol dire oltre? Perché mentre la mafia fa tutti i casini che la mafia deve fare, lui scrive i pizzini senza mai muoversi dal suo pollaio clandestino. Intanto studia Kierkegaard. Proprio lui. Ma io sapevo, insomma, che scrivere le cose si poteva scrivere un romanzo, un racconto, tragedia, sceneggiatura, un discorso politico, articoli, saggi, insomma, si poteva vivere scrivendo tutte queste cose, ma scrivendo pizzini non capisco come fai, cioè, come funziona. Vabbè, perché voi siete proprio due ciula. No, lui è un ciula, parla per Drago. Io lo sapevo cos'erano i pizzini. I pizzini? Ma sì, Drago, i pizzini. Marisa, gli hai preparati i pizzini? Sì. Brava, Pulcino. Glieli hai messi i cetriolini? Brava, Pulcino. E i birrini? Nel frigo? Sei il mio Pulcino. Io sono Alberone, lo psicologo dei polli, e scrivo tanti libri per darvi dei consigli. L'amore non è amore se non è litigarello. La vita non è vita se non ti senti bello. E la felicità è proprio tutta qua. chiedete un'opinione allo psicologo dei polli, la vendo un tanto al chilo sulle spiagge degli atolli. E mentre vi abbronzate sotto il solleone, ecco la soluzione all'ombra di Alberone. Oh, oh, oh, la fabbrica di polli, polli, oh. Shh, Drago, dai, cerchiamo almeno di capire che cosa dicono i comunicati della fabbrica di polli, dai. Ma cosa vuoi che dicano? Cosa vuoi che dicano? Lineare, noch nicht, lineare, Frester, come lo sappiamo a memoria, un messaggio senza alcun senso. È sempre lo stesso, per cui smettila di scaldarti tanto e continua a camminare. Sì, eppure Drago, se ti astraiti, anche tu con questo messaggio puoi arrivare a imparare tante cose. Quindi tu stai zitto, che con la scusa dell'astrazione sei stato a Barcellona una settimana a cantare come un pirla Twist and Shout che diventa La Bamba. Ma no, è falso. Come no? È falso. Come? Sì, è falso. È vero che ho cantato cose da piano bar, tipo Sweet Home Chicago, appunto, tipo La Canzone del Sole. E questo. Sì, Drago, però mai mi sono abbassato a Twist and Shout che diventa La Bamba. Ci sono soglie che un musicista non può oltrepassare. Guarda che io ho le prove. Lasciami finire, Drago, lasciami finire. Dicevo che ci sono soglie che un musicista non può oltrepassare senza perdere la faccia. Mi spiego. Anche se sei Pierre Boulez, hai 80 anni e da 50 spacchi i maroni a tutti con opere irrappresentabili finanziate dai governi di mezzo mondo, anche se sei Pierre Boulez, magari un pomeriggio da solo sei seduto al pianoforte a coda, sorseggi un pastis e ti viene in mente di strimpellare qualcosa senza pensarci troppo su. A quel punto, se qualcuno entra in casa tua all'improvviso e ti sorprende, Monsieur Boulet, qu'est-ce que vous jouez? Twist and Shoot qui devient La Bamba. Oui, plus ou moins, c'est ça. La Bamba. La Bamba, oui. Ah ouais. Mais écoutez, avez-vous de La Bamba? Jouez un peu de Bamba pour faire la musique. Insomma, anche se sei Boulez, Drago, e vieni sorpreso a suonare Twist and Shout che diventa La Bamba, perdi di colpo ogni tipo di prestigio, quindi io mi guardo bene dal fare certi errori. Ti dico che ho le prove, K. Ma come le prove? Ma cosa dici? Vuoi proprio sentirle? Senti qua. C'entro io qua. Questo è Twist and Shout che diventa La Bamba, giusto? Ma cosa c'entro io? In mezzo c'è la tua voce. È impossibile. Ci sei anche tu in mezzo a questo. Ma non è vero, Drago. Non negare, non puoi negare l'evidenza. Hai cantato Twist and Shout che diventa La Bamba. Ma quindi anche tu sei come Pierre Boulez. Les marteaux sont maîtres. Twist and Shout qui devient La Bamba. As-tu de La Bamba? Je voudrais bien de La Bamba. Che cosa succederà adesso? Qualcuno ne ha idea? No? Bene, e qualcuno ha della bamba? È quello che speriamo. Quindi, tornate numerosi la prossima settimana, dal lunedì al venerdì a mezzanotte su Radio 3, per i prossimi velenosi allestimenti di... La fabbrica di polli. Anche sul podcast di Radio Rai. La fabbrica di polli, un programma di K e Drago, con Guido Bertolotti, Alberto Caserini, Andrea Collavino, Luca Gemma, Mauro Mossa, che è un ascoltatore che ci ha suggerito al volo un paio di battute e quindi gli abbiamo detto che l'avremmo messo nei crediti. La fabbrica di polli è rai.it, barlumen.com. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non nuoce. Come su Halloween. Se non lo dici vengo di lì. E come Schwingung. Schwalongin, Schwungen. Barlumen.